Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Buonasera a tutti e bentornati a Ethno Chic qui su Radio Città del Capo dopo una pausa, insomma, periodo di feste, oggi prefestivo. Siamo qui con dei graditissimi ospiti che comunque testimoniano bene nelle loro musiche quest'area di festa che si respira in questi giorni. Buonasera, buonasera ai due componenti dei Lame da Barba che abbiamo qui ospiti, cioè Francesco Paolino e Alessandro Predasso, che salutiamo. E salutiamo anche i nostri radioascoltatori. Abbiamo sentito un brano del vostro CD La Muta Vita, che l'anno scorso ha avuto anche un premio, giusto Francesco? Sì, sì. Abbiamo avuto la piacevolissima sorpresa a luglio dell'anno scorso di vincere il premio Città di Loano Giovani, che molte persone non lo conoscono, ma Maria addetti ai lavori alla musica, diciamo, dal filone tradizionale, uno dei più importanti premi, riconoscimenti italiani. E noi siamo stati premiati come band emergente, quindi come nuovo progetto, con il disco La Muta Vita, di cui il primo brano che avete ascoltato, Stavrosioti, che è proprio il brano che apre il disco. È un disco che è uscito 2 anni fa, giusto, se non ricordo male? Sì, nel 2017, grazie a una campagna crowdfunding su internet, giusto? Con Music Racer, inaspettatamente abbiamo avuto un bellissimo riscontro e poi abbiamo deciso di andare in Sicilia a registrare. Di cui Vladi fu un fedele donatore, se ben ricordo. Eravamo in tanti, insomma, era in buona compagnia, insomma, è una cosa abbastanza interessante questo fatto di poter sostenere, come dire, dei dischi, dei lavori molto interessanti. E è capitato altre volte e poi alla fine anche, come dire, anche conveniente, perché oltre al disco, alle varie proposte che venivano fatte, insomma, c'erano delle prospettive molto interessanti, in questo caso una lauta cena, devo dire, a casa di Alberto, che è stata veramente una bellissima serata, quindi bei momenti anche di socializzazione, no? Non solo musica, poi, non solo... Ecco, poi il mondo di internet, oltre ad avere tanti mali, anche tanti beni, anche come queste nuove forme. Esatto, sì, è sempre uno strumento che... Prodursi, perché ovviamente, cioè, come ben sai, registrare un disco ha dei costi di un certo tipo e quindi sono delle belle iniziative, ecco, anche ormai esiste da anni, ecco, questa formula qui continua adesso. Alessandro, raccontaci un po' il nome, la Meta Barba e come nasce questo progetto. Ma innanzitutto noi ci siamo conosciuti 10 anni fa per scherzo, abbiamo iniziato a maneggiare questo mandolino e specializzarci entrambi sul repertorio suonato dai Barbieri di Sicilia, che era una scelta poi nei primi 10 anni del 2000 abbastanza controtendenza. Era pieno di questi brani, di queste valze, di queste tarantelle che nessuno conosceva e che noi di sfuggita, tramite anche alla conoscenza del nostro amico comune Mauro Semeraro, esatto, siamo riusciti a conoscere e ad accedere, insomma, per poi imparare questo repertorio. Ma come ben sai, poi la tradizione di un tempo esce stretta, insomma, nella contemporaneità, quindi abbiamo sentito l'esigenza poi di espanderci a livello stilistico, compositivo, viaggiare anche ben oltre, insomma, il bacino del Sud Italia e quindi arrivare dall'altra parte, insomma, del Mediterraneo. Certo, perché comunque sì, la prospettiva sempre di un lavoro su un linguaggio musicale è sempre quella di un viaggio, si parte da un punto e poi magari si fanno delle tappe anche un po' diverse, insomma, non si sa perfettamente tutto il cammino, come altrimenti non sarebbe qualcosa di così interessante. Assolutamente, è dinamico, è interessante perché è dinamico e anche, nonostante alcune persone poi considerino la musica non italiana dal momento in cui esci dai confini, è comunque coerente, nel senso, con in questo progetto troviamo quindi influenze musicali di vario tipo, non solo appunto la tradizione mandolinistica delle Barberie del Sud Italia, ma per esempio anche musiche, insomma, del vicino Oriente, così come la musica, i ritmi della musica greca, giusto? Come per esempio molta questo Grecia. Primo brano. Però una cosa importante, caratteristica di quello che fate voi, è che tutti questi brani non sono brani tradizionali o comunque sono brani vostri, giusto? Sì, a parte qualche reinterpretazione, ad esempio Caravan, che è un brano tradizionale armeno che noi abbiamo proprio completamente riadattato in stile nostro, e poi nella Muta Vita troviamo anche la danza medievale, che è un saltarello che abbiamo riprodotto. Certo. Per il resto sì, la ricerca è sempre stata, cioè l'idea è nata quando suonavamo in strada, chissà se si riesce a creare dei brani che anche suonati in strada riescono a stuzzicare la curiosità delle persone, era questa un po' l'idea iniziale. Quindi ovviamente abbiamo iniziato con la composizione di valzer, con brani di altro tipo. E certo, poi andando avanti negli anni... Per esempio il brano che abbiamo sentito prima si chiamava Stavrosiotico, giusto? Ecco, questo ha anche un aneddoto carino. Eravamo a suonare, non so, quanti estate fa a Scicli, in Sicilia, e ci ferma una ragazza per strada. Suonavamo un brano greco che si intitola Koros Tous Akhena di Stavros, appunto Xarchakos. Suonavamo questo brano e questa ragazza che stava lavorando alla colonna sonora per un film documentario per Rai Cinema e ci chiese: questo brano è molto bello, è vostro? Noi ovviamente abbiamo detto di sì, ci piacerebbe inserirlo come titoli di coda per questo film. Ovviamente dopo ci siamo detti: cavolo, il brano non è nostro, proviamo a creare un brano in stile greco. E lì abbiamo creato questo brano qua, che poi omaggia Stavros Xarchakos, che è un compositore abbastanza conosciuto in Grecia. E questo è il brano che mi ha ascoltato. Invece adesso andiamo ad ascoltare un brano che si chiama Anonimo in Do minore. Sì, sì. Brano di nostra composizione, questo? Questo pure è un altro brano di nostra composizione. Ecco, questo è un brano molto più vecchio e ha una vita ancora più lunga e travagliata. Ha avuto tante modifiche. Questo è uno di quei brani perché, cioè, io personalmente ho iniziato a comporre musica, a scriverla, perché eravamo all'epoca in trio, io, Alessandro e Stefania. E lì abbiamo conosciuto casualmente per strada due ragazzi, due mimi, che ci chiesero: ma chissà, sarebbe bello fare un grande spettacolo in strada con musica dal vivo e teatro e pantomima. E lì ci è piaciuta tanto questa idea. E questo brano inizialmente aveva delle caratteristiche forse un po' più circensi, infatti anche l'armonia un po' cromatica. Poi negli anni, con l'ingresso nel progetto di Alberto, ha preso una vena un po' più orientale. Con l'aggiunta della percussione. Bene, dopo andiamo a presentarli, adesso ascoltiamo questo Anonimo in Do minore. Thank you. siamo sempre qui su Ethno Chic con Francesco Paolino e Alessandro Predasso dei Lame da Barba, che ci stanno parlando insomma della loro esperienza di musicisti, e poi ci parleranno anche delle novità, insomma. Questo, qui stiamo ascoltando il disco che è del 2017, giusto? Sì, sì. E parlavamo che appunto voi due siete due dei componenti, siete anche compositori dei brani, giusto, se non ricordo male? Sì, sì. E poi abbiamo anche Stefania Megale che suona il clarinetto e il sassofono. Alberto Mammollino alle percussioni, Pippi Di Monte al contrabbasso, a volte c'è anche Gabriele Laghi. Che si alterna, certo. Quindi è una formazione comunque abbastanza stabile negli anni, giusto? Sì, e beh, tutto è iniziato nel 2011-2012 in trio, io, Alessandro e Stefania. Il nome era pure un altro, all'epoca ci chiamavamo Trio Flaminer. Poi nel 2014, se non sbaglio, sì, 2014 entra Alberto. E poi con l'idea anche di fare un disco conosciamo casualmente Giuseppe Di Monte, che è stato, mi sembra, proprio il 2016. Pippi durante una jam. Abbiamo conosciuto Pippi, infatti avevamo proprio il bisogno di cambiare anche per fare un disco, avere più corpo, avere, diciamo, a livello di frequenze la completezza. E lì poi è entrato a far parte pure Giuseppe. Grande Pippi, come il prezzemolo a Bologna. Beh, giustamente i contrabbassisti, come dire, hanno tante come formazioni Gerara, sì. Come bassi. Lui è anche bravo, dai, non perché suona con noi. Arriviamo a parlare, insomma, di questo nuovo brano, insomma, presentatelo un po', che è poi un brano che è uscito recentemente, proprio il video di questo brano, che si chiama Radio Baghdad. Sì, abbiamo registrato questo nuovo brano con l'arrivo della primavera, dopo appunto 2 anni di pausa da brani nuovi, il che non significa che non ci sono state nuove produzioni, ma più che altro una ricerca. Ecco, ora dopo il secondo disco, dove andiamo? E l'idea è quella di sempre esplorare, approfondire, cambiare e mutare. E Radio Baghdad è un brano, cioè a livello compositivo, che è stato impostato diversamente rispetto a tutti gli altri brani nostri del passato. È un brano in un certo senso più semplice e più libero. Ecco, la nuova direzione sarà quella di riuscire a creare dei brani che hanno maggiore, magari, interazione tra un luogo e un altro, e questo te lo dà, secondo me, quando hai dei brani con degli arrangiamenti o con delle melodie, diciamo, semplici, quindi anche molto improvvisative, e quindi automaticamente mutano nel tempo e nel luogo in cui si trovano. Ecco, e come mai, insomma, il titolo Radio Baghdad? Ecco, questo è stato Alessandro, che è il fantasioso del gruppo. No, beh, diciamo che l'idea, lo stilema armonico compositivo nasce da Francesco, e ci piaceva un po', come il termine che dà il nome a questa trasmissione, di unire un po' l'antico e il moderno, no? Sì. Baghdad, un parolone, non solo una città, insomma, ricco di significato, che a livello musicale, insomma, richiama sicuramente la tradizione, però una tradizione che non stia lì a prendere polvere, e quindi in antitesi abbiamo associato un termine, insomma, radio, che è... Beh, anche perché comunque Baghdad, insomma, è stato un importante riferimento per la cultura musicale medio orientale. Insomma. Assolutamente, assolutamente. Poi diciamo che questo stilema compositivo richiama molto, pur non essendo sempre, diciamo, arabo, perché noi comunque rivisitiamo anche in chiave occidentale. Per esempio, non abbiamo un non avete strumenti aperto. Armi, sì. Sì, del makam, insomma, delle scale che si usano lì. Esatto. E niente, ci faceva costare appunto questo termine radio, che è comunque guardare al moderno e soprattutto far viaggiare questo suono. E questa registrazione l'abbiamo fatta al Circolo Meno Male, in piazza Santo Stefano, dove abbiamo pure girato tutto in presa diretta il video, e ne è uscito appunto poi questo brano qui. Di cui ascolteremo qui in radio a Etno Chic l'audio di Radio Baghdad dei Lame da Barba. Thank you. questa era appunto la nuova creazione, il nuovo brano di Lameda Barba, Radio Baghdad. Brano nuovo, anche questo ha avuto una lunga... No, questo è proprio un brano nuovo, è nato, ma veramente, penso 4 mesi fa. Poi lo abbiamo iniziato a provare all'incirca un paio di mesi fa. L'idea era proprio quella di riuscire a catturare un'idea, un'impronta improvvisativa. Infatti tutta la parte centrale del brano è stata creata insieme, quindi un'idea di creazione anche collettiva e non solo compositiva personale. Certo, non c'è qualcuno che scrive tutti i temi, tutte le armonie, ma insomma, ecco, in qualche modo. Prima l'idea è sempre stata questa: io preparavo non so le parti melodiche e suonavamo quelle. Invece in questo brano, che spero che sia il primo di una nuova serie, avere maggiore interazione, no, col gruppo, perché poi automaticamente anche dove non arriva uno arriva l'altro. Beh, quello anche perché inizi a conoscerti, perché magari hai degli ascolti comuni, percorsi comuni, quindi in qualche modo è più facile, insomma, fare degli incastri. E poi penso anche perché la musica respira meglio, anche sia per chi la suona, la crea, perché hai più interplay durante un live, e anche automaticamente per chi la ascolta. Quindi penso che questa sarà la nuova direzione che ci prospetta il futuro. Bene, noi ritorniamo invece in questo ciclo di ascolti a un brano che in qualche modo rimane sempre una sfera medio orientale, che è turchica, che è sempre un brano della muta vita del disco del 2017, che fu poi anche per il nastrone di Radio Città del Capo, fu una delle nostre proposte, insomma, insieme agli Accordo dei Contrari, al disco di Nicola Guazzaloga e Silar Mezei, e al disco di Maria del Mar Bornet. E questo Turchica, insomma, nasce un po' anche questo da ispirazione alla musica medio orientale. Questo, no? Sì, un brano che ha scritto Alessandro, quindi chiediamo a lui. Sì, viene praticamente dalla celebre Nia Ventlonga, ma poi volta completamente pagina e diventa un'altra cosa. Inizia come non dovrebbe iniziare, finisce come non dovrebbe finire, e così nasce Turchica. Insomma, si parte, insomma, quindi da uno stilema di composizione, appunto, proveniente dalla tradizione turca, e poi ci si distacca. Ovviamente ciò che noi riproduciamo con il timbro, no, con l'uso anche di fiati e di strumenti a pizzico, insomma, richiama sicuramente alla Turchia, però anche questo, insomma, penso che sia la cosa bella, insomma, no? È l'esca per l'orecchio, insomma, la derivazione occidentale, insomma, del brano. E poi questo è uno dei primi brani in cui abbiamo inserito la mandola, che forse non so se tutti lo sanno, la mandola è uno strumento che appartiene sempre alla famiglia dei mandolini, è un registro più tenorile. Un po' come violina, viola, violoncello, abbiamo il mandolino, mandola e mandoloncello. Esatto, quindi, che poi sono tutti strumenti poi di derivazione, i vari liuti, che insomma, cioè, sì, tentativi, sì, di rendere un pochino più sonori e presenti quello strumento liuto che era in voga nel 500. Tutti questi sono strumenti proprio che dal 1600 in poi, insomma, prendono più piede rispetto al liuto, che aveva questo suono delicato, poco presente, insomma. Più cameristico, insomma. Esatto. E andiamo a sentire quindi Turchica. Thank you. sempre qui su Radio Città del Capo, Etno Chic, 94.7, 96.250, oppure potete anche ascoltarci su in streaming, sulla radio. Vi ricordiamo che poi piano piano con i nostri tempi tutte le puntate verranno messe sulla pagina di archive.org/etnochic_2, che sarebbe la seconda stagione di Etno Chic. Diciamo che entro la fine della seconda stagione dovrebbero esserci tutte le puntate, per ora ce ne sono un bel po', e l'anno prossimo poi con la terza vedremo poi di metterlo tutto sul sito della radio con i nostri tempi. Nel frattempo salutiamo Stefania Megale in collegamento telefonico, che è l'autrice del prossimo brano che andremo a ascoltare, ovvero sia Kvasir. Ciao Stefania. Niente, siamo qui con Francesco Alessandro, stiamo presentando appunto non solo il video ma anche parlando della muta vita, perché poi non avevamo avuto occasione di parlarne qui in studio. No, infatti, bella grande, cioè, ci fa piacere essere qui. E quindi niente, stavamo parlando di Kvasir, che è un brano tuo, giusto? E di come, insomma, com'è nato, insomma, abbiamo parlato un po' di come lavorate, eccetera. Raccontaci qualcosa. Tenore, quindi sì, dall'idea melodica. Invece il titolo è nato dopo, insomma, per delle letture che stavo affrontando in quel periodo, e perché quasi era un personaggio della mitologia nordica legato alla saggezza. Si dice che dal suo sangue i poeti traggano ispirazione. Quindi sì, questo è. Bene, allora niente, andiamo a ascoltare questo brano e resta pure in collegamento. Thank you. Siamo sempre qui, questa era Quasi, e salutiamo Stefania Megale, che è l'autrice, la sassofonista e l'autrice di questo brano del disco La Muta Vita dei Lame da Barba, che ormai è del 2017, ma abbiamo sentito anche la composizione Radio Baghdad, che è tratta dal video che è uscito in questi giorni, e naturalmente potremmo a breve ascoltare i Lame da Barba di nuovo in concerto, giusto Francesco? Sì, sì, abbiamo ora qualche appuntamento a maggio, il 28 aprile, quindi in realtà tra pochissimo. Domenica. A Varano de Melegari suoneremo per la Fiera Agricola sia il 28 aprile che il 1 di maggio. Poi a fine mese andremo al Cuevida, a Marina di Ravenna, sì. Questo è il 26 maggio. Poi il 6 luglio un bellissimo appuntamento a Loreto Abrutino, che si trova in Abruzzo, e poi stiamo lavorando su tutto il tour estivo. Beh, chiaro, quello che poi sicuramente le date ci sono porterà, ancora che devono saltare fuori. Ci porterà in Puglia, ecco, mm-hmm. Questo è l'obiettivo dell'estate. Sì, quindi la meta sarà, quindi se volete seguire i nostri amici musicisti dovete insomma prepararvi a fare tutta la costa adriatica e andare verso la Puglia. E quindi sì, per chiudere insomma con questo brano, ma abbiamo ancora un po' di minuti, vediamo proprio, torniamo a quelle tradizioni musicali del centro-sud Italia, che sono un po' l'origine di tutto questo, giusto? Sì, sì, sì. E infatti sì, non a caso comunque molti brani vostri sono richiamano anche nei nomi Tarantella, Saltarello, queste tradizioni di danze, no? Anche l'idea comunque del legame avete appunto nell'altro disco che avete fatto, c'era appunto una danza rinascimentale, giusto? È più forte inevitabilmente richiama la tradizione nel primo disco, insomma, in quello omonimo. Ovviamente ci sono valzer, tarantelle, ci sono swing all'italiana e ci sono anche brani dedicati al modo di comporre di Rino Rota per i Quinti Fellini, al modo di comporre di Morricone, insomma ci sono alcuni accenni, alcune citazioni. Sì, è rimasto poi un miscuglio di tutto ciò che ci esalta alla fine. Lo stile italiano. Che poi quando si ascolta musica, si ascolta tanta musica, si guarda un film. Io sono rimasto folgorato, eravamo giù a Scicli, in Sicilia, c'era questa mostra fotografica che riprendeva tutte le foto delle antiche barberie in tutta la Sicilia, e io lì ho scoperto che nelle sale da barba si suonava. Tu guarda che io, essendo nato certo nell'89, sono cresciuto che già tutta questa tradizione nelle mie zone era completamente sì scomparsa, e da lì, facendo delle ricerche, andiamo a scoprire che esistito, in qualche zona esiste ancora un repertorio sì mandolinistico tutto suo, proprio della zona. E la cosa incredibile è che anche al nord Italia c'era questa tradizione, e in qualche modo ogni tanto da qualche parte del nostro paese emerge qualcosa di questo tipo, così magari in una casa, dopo cena, e qualcuno tira fuori il mandolino, la fisarmonica, e saltano fuori questo repertorio che alla fine era diventato abbastanza comune. Oggi proprio ho letto che praticamente c'era un archivio che ha recuperato questi giornali, che erano un po' tipo i giornali di moda dell'epoca, dei fine dell'Ottocento, per le sartine, e questi giornali erano questa raccolta di giornali che era la seconda metà dell'Ottocento, mi pare intorno al 1867-69, erano pieni di queste polche, scottisce, saltarelli, valzer, per esempio già meno, perché in quel momento erano altre le danze in voga, era più sì, la polza, certo, la mazurka che si imponevano, e questo gran repertorio di autori appunto arrivava poi ovunque, anche proprio con gli spartiti, e tutti insomma, sia a livello delle band allora che nascevano, sia chi suonava il mandolino, chi suonava la fisarmonica, si appassionavano a questi materiali. Poi c'era tutti i fogli volanti a stampa, e infatti quando, anche durante la prima guerra mondiale, molti soldati, cioè quando gli austriaci arrivavano e conquistavano, per esempio dopo la rotta di Caporetto conquistarono le Cerincee, si meravigliarono e ironizzarono sul fatto che appunto gli italiani avevano così tanti strumenti, no? Tutti questi mandolini che trovarono nelle trincee. Sì, sì. Perché non chiaramente, certo per di tempo, però. Perché chiaramente il mandolino è uno strumento che si può portare, si può maneggiare abbastanza tranquillamente, si può. E quindi niente, questo Saltarello invece è comunque sempre un brano vostro, giusto? No, questo Saltarello è un brano anonimo medievale. Ah, quindi questo è un brano medievale. Sì, sì, qui abbiamo proprio ripreso, è un brano, è una melodia continua, circolare, che si ripete sempre, come spesso accade appunto nei Saltarelli. E noi lo abbiamo tutto reinventato. Qui sicuramente, secondo me, proprio lo strumento centrale è il tamburo muto a cornice di Alberto, perché ti fa proprio entrare in quel mondo lì. Dinamica di trance, effetto ancestrale, insomma, tipico anche delle zone del Nord Africa, insomma, però col terzinato del Sud Italia, per riprendere certo. Un po' il tema. E quindi anche questo qui è un, si può dire, un mashup, una fusione di stili di De. Ecco, questo poi l'abbiamo scelto come anche brano conclusivo del disco. È il brano quello che ti porta, cioè nella nostra idea, al viaggio continuo. Quando lo abbiamo registrato, visto che dura quasi 7 minuti, avevamo un po' paura, ma forse è un po' troppo lungo, forse bisogna tagliarlo. E lì Alberto mi fa, no, questo... Non si taglia niente. Non si taglia niente di questo brano. Io questo vorrei che duri... Questo vorrei che duri 3 volte di più. Effettivamente poi dopo un po' di tempo, quando dopo tutta quella chiusura da studio di registrazione, effettivamente avremmo fatto un grave errore. E infatti noi adesso lo mandiamo, lo manderemo fino in fondo, fino a quando non comincerà il giornale radio di Popolare Network. Intanto ci salutiamo, ringraziamo grazie Francesco, Alessandro e buonanotte. Seguite Ethno Chic. Buonanotte. E ci rivediamo non il prossimo mercoledì, che è 1° maggio e festeggiamo anche noi, e quindi ci vediamo l'8 maggio con altri ospiti. Buonanotte.